Salva Danaio di Deborah Rosciani. È venerdì 2 novembre, da Deborah Rosciani ben ritrovati a tutti ad una nuova puntata di Salva Danaio. Oggi una puntata speciale per parlare di fisco. Non vogliamo subito mettervi di cattivo umore, ma ne parliamo, speriamo, anche in termini costruttivi. Nell'ultimo anno sono cambiate molte cose per il nostro paese. Un governo tecnico, ricorderete tutti il drammatico passaggio di consegne di un anno fa circa, tenta di raddrizzare i conti pubblici per fare in modo che il paese non venga più massacrato dalla speculazione finanziaria e riesca così a mantenere la dignità europea alla pari delle nazioni considerate più virtuose. Un lavoro che, come era logico aspettarsi, ha permesso al governo Monti di ripristinare in una direzione di normalità la reputazione internazionale del nostro paese. Ma al contempo questo lavoro che l'esecutivo sta facendo ha reso obbligatoria la strada della richiesta di molti sacrifici ai 60 milioni di italiani che naturalmente abitano in questo paese. Ricordiamo ancora tutti i provvedimenti che hanno costellato l'anno di vita dell'esecutivo Monti: la manovra Salva Italia nel dicembre dello scorso anno e poi la Cresci Italia, i provvedimenti di liberalizzazioni e semplificazioni, le misure per lo sviluppo e l'ultima legge di stabilità che, non tra poche polemiche, ha riorganizzato, e non certo a favore dei contribuenti, tutto il regime di deduzioni e detrazioni fiscali, rendendo più pesanti in prospettiva la prossima dichiarazione dei redditi di famiglie ed imprese. Una sintesi estrema di questi recenti mesi di vita italiana, un paese che ha uno dei debiti pubblici più alti al mondo, non ne manchiamo mai di ricordarlo, ma che non riesce a riprendere il sentiero della crescita, un paese dove il malaffare politico ha spesso la meglio sulla buona amministrazione, dove c'è chi si crede in diritto di non pagare le tasse, con il risultato che abbiamo un livello di evasione fiscale intollerabile che sembra impossibile da combattere, nonostante spesometri, redditrometri, tracciabilità dei pagamenti, limiti ai pagamenti in contanti e quant'altro. Una situazione che convive con un livello di pressione fiscale altrettanto abnorme. E per l'italiano medio la percezione è sempre la stessa: chi è capace di farla franca continuerà imperterrito, chi agisce con onestà e rispetto del paese pagherà sempre tutto quello che deve, e da qualche mese, con le manovre di ripristino dei conti pubblici, sta pagando e pagherà ancora qualcosa in più. E si intitola proprio Il Salasso, l'ultima fatica editoriale di Dino Pesole, collega delle Sole 24 Ore, che oggi vi presentiamo in questa puntata speciale della nostra trasmissione. Dino, buongiorno e benvenuto a Salva Danaio. Grazie, buongiorno. Dino Pesole, una firma storica del Sole 24 Ore, nonostante sia giovanissimo di età, perché questo va naturalmente precisato. Da anni si occupa, con analisi lucide e inchieste molto ben documentate, di finanza pubblica e fisco, e anche il quirinalista del Sole 24 Ore, quindi ha avuto modo anche di maturare la sua esperienza professionale accanto agli ultimi inquilini, appunto, del Quirinale, gli ultimi presidenti della Repubblica. Il sottotitolo del Salasso è Come non finire dissanguati dalle tasse, 5 mosse per cambiare il fisco. Una bella sfida, Dino, facci subito il tuo biglietto da visita di questo tuo volume, di questo tuo ultimo lavoro. Sì, è un tentativo per rimettere al centro della discussione, sia a livello politico, ma direi soprattutto nel paese, della questione fiscale, che ha, come del tutto evidente, tu lo anticipavi, un rilievo fondamentale, perché il fisco ha un ruolo decisivo nell'allocare le risorse, nel distribuire il carico tributario, un carico tributario che per molti aspetti continua a essere fortemente mal distribuito nel nostro paese, perché una delle cose che forse tutti noi sappiamo, ma che forse gli ascoltatori non hanno ben presente, che il nostro sistema fiscale si basa sostanzialmente per oltre l'80%, circa l'82%, sul gettito che deriva dalle ritenute sul lavoro dipendente e da pensione, lavoro dipendente pubblico e privato naturalmente. E questo determina evidentemente una diversa e una incerta politica fiscale, perché se da un lato molti contribuenti sono in qualche modo costretti a essere Ligi al dovere perché gli viene applicata la ritenuta alla fonte sulla pensione o sullo stipendio, c'è una larga fetta viceversa di cittadini italiani che per molti motivi che potremo approfondire se vuoi trovano altri modi per affrontare la questione fiscale. Il modo classico è sostanzialmente duplice: da un lato l'elusione, che è una forma di aggiramento dell'obbligo tributario, se vogliamo, tra virgolette, consentito dall'ordinamento, e dall'altro è questo fenomeno che purtroppo ci assegna uno dei primati storici, che è quello di un'evasione fiscale che si aggira, secondo le ultime stime, tra i 120 e i 150 miliardi l'anno. Io ero rimasta a 100 e tra l'altro mi dicono anche gli altri nostri colleghi del Sole 24 Ore che sono in ogni caso sempre stime rilasciate per difetto, perché si ha l'impressione comunque di un fenomeno che non si riesce mai a padroneggiare neanche nei numeri virtuali, Dino. Esattamente, è complicato anche perché essendo un fenomeno che sfugge alle rilevazioni statistiche, parliamo ad esempio dell'immenso sommerso, di cui l'evasione è solo una parte. L'Istat, con riferimento al 2008, ha stimato che il sommerso, vale a dire l'intera economia, come dire, sottotraccia, che sfugge a ogni rilevazione, sia dal punto di vista fiscale che contributivo, equivale a una cosa mostruosa, circa il 18-20% del PIL. Qui stiamo parlando di cifre astronomiche, 270-280 miliardi di euro. La questione è molto complicata perché molta economia, come noi sappiamo, è in mano in diverse zone d'Italia alla criminalità organizzata. Siamo un paese che storicamente e strutturalmente non ha una coscienza fiscale. Al contrario, l'attitudine media, e questo è un problema che riguarda tutti gli italiani a vario livello, è quella di individuare dei varchi, delle scorciatoie, perché il nostro rapporto con lo Stato è storicamente conflittuale. Così come quello con il fisco, tema che avremo modo di approfondire nel corso della trasmissione. Abbiamo estratto alcuni brani dal tuo libro, Dino. Adesso cominceremo a proporne qualcuno ai nostri ascoltatori. Prima però una cosa da ricordare: so che ci tieni molto e noi molto volentieri ti diamo questo spazio, cioè vogliamo ricordare che questa sfida che tu lanci con questo libro, Il Salasso, in realtà è una sfida che inizia a quattro mani, poi hai dovuto concludere questo lavoro da solo, e ricordiamo appunto la figura di Francesco Piu, che è il collega con il quale avevi scritto il tuo libro precedente, Il Patto. Sì, nel 2008 l'idea nasce sostanzialmente da una sua intuizione, devo dire molto coraggiosa, ed è un libro che abbiamo scritto insieme, si chiamava Il Patto, e sostanzialmente si basava su una idea provocazione che poi è stata anche raccolta da un disegno di legge che giace in un cassetto del Senato e lì finirà probabilmente, che era quello di cominciare a dare un riconoscimento ai contribuenti fedeli sotto forme che si possono studiare e che in qualche modo io rilancio in questo secondo libro che con Francesco avevamo immaginato di scrivere insieme. Abbiamo progettato insieme, costruito in qualche modo l'intelaiatura, poi lui purtroppo è scomparso nel mese di giugno e quindi io in qualche modo ho ritenuto anche un mio obbligo, come dire, morale, ma anche di profonda amicizia nei suoi confronti, portare a compimento questa nuova impresa che rilancia, rafforza alcune sue idee che i lettori troveranno in questo nuovo libro. No, tra l'altro questa idea del premio al contribuente virtuoso e fedele, oltre ad essere piaciuta in sede politica ed essere stata raccolta in sede politica, anche se poi rinchiusa immediatamente in un cassetto, come ci diceva, poi magari ricordiamo anche i nomi dei parlamentari che si appropriarono di questa idea con l'intenzione di concretizzarla senza successo, piacque molto, se non ho letto male dal libro, se non me lo ricordo male, anche ad Attilio Befera, capo di Equitalia, d'agenzia sia delle entrate. Sì, certamente sì, tanto che ne ha fatto oggetto di una proposta lanciata nello scorso marzo, quella di leggermente diversa dalla nostra, quella comunque di prevedere una sorta di bollino blu per i commercianti che risultassero assolutamente in linea con gli obblighi fiscali. Ma poi devo dire che con mia nostra grande sorpresa, quando abbiamo letto nel decreto Salva Italia, a cui facevi riferimento tu all'inizio della nostra conversazione, all'articolo 10, in realtà c'è già un meccanismo di premialità, che è quello che però si rivolge sostanzialmente alla platea del mondo del lavoro autonomo e in cui si dice esattamente che quei contribuenti, quegli studi professionali, quegli esercenti che risultassero in linea con gli studi di settore potrebbero avere un'agevolazione sotto forma di accelerazione dei rimborsi, di semplificazione degli adempimenti, un premio appunto. Ed era esattamente quello che noi avevamo in mente nel 2008, cioè quello di aprire una breccia e credo che questa breccia stia cominciando piano piano ad allargarsi. I senatori, il primo firmatario di questo disegno di legge è il senatore Barbolini, che ha raccolto la provocazione del nostro libro 2008 e ne ha fatto oggetto appunto di un disegno di legge che esattamente propone questo. Ovviamente il disegno di legge probabilmente, auspicabilmente, potrà essere ripresentato ormai direi nella prossima legislatura. Abbiamo ancora qualche settimana, speriamo, di tempo per superare la fase di emergenza finanziaria del nostro paese, poi magari sarà il momento di ritornare sulla strada della normalità per tante cose, speriamo anche per questa. Allora, dicevo prima, abbiamo estratto qualche contributo dal libro di Dino Pesole, Il Salasso, come non finire dissanguati dalle tasse, 5 mosse per cambiare il fisco, dissanguati dalle tasse, ma perché? Sentiamo a quanto ammonta la pressione fiscale nel nostro paese. La pressione fiscale si avvia a raggiungere il record del 45,3% in rapporto al PIL. È il livello più elevato dal secondo dopoguerra. In realtà, così come misurato nelle statistiche ufficiali, il peso delle tasse e dei contributi sull'insieme di beni e servizi prodotti ogni anno dal nostro paese, questo è il PIL, non esprime il dato reale. A quanto ammonta effettivamente il prelievo per i contribuenti fedeli? Un conto è la pressione fiscale apparente, vale a dire quella registrata dai dati di contabilità pubblica. Un conto, quella reale. Proprio a causa dell'altissima e scandalosa evasione e del fitto reticolo di tributi nazionali e locali, la tassazione effettiva sui cittadini onesti supera il 50%, in diversi casi il 55%, e per esplicita ammissione dei vertici dell'Agenzia delle Entrate, può raggiungere in alcuni casi l'astronomica cifra del 70%. Non riceviamo certo servizi di qualità tale da compensare un così elevato prelievo, anche per l'abnorme livello della corruzione, 60 miliardi l'anno, secondo la Corte dei Conti. L'Italia risulta al primo posto nell'Unione Europea per quel che riguarda la tassazione sulle imprese. Vanta il primato del prelievo sul lavoro, che pesa per il 64%. Tema del quale, peraltro, a pagina 63 del libro Dino Pesole si occupa e si parla qui di un IRPEF, la regina delle imposte, che è da riformare, così come va alleggerita la tassazione sul lavoro. Ma ritornerei ad un'altra pagina, Dino, del tuo libro, pagina 51, dove ti interroghi su chi non paga le tasse in Italia e ti interroghi anche sulla possibilità di tracciare una fotografia, un identikit di questo losco figuro che magari si nasconde in ognuno di noi, perché magari i tentativi per alleggerire il carico fiscale vengono un po' da tutti quanti, studiati e magari non tutti esperiti questi tentativi, però c'è un potenziale evasore in ognuno di noi che poi magari rinsavisce al momento giusto? C'è un potenziale evasore in ognuno di noi, questo è il punto, ma non perché noi siamo, come dire, cattivi soggetti e non bravi cittadini, ma perché viviamo all'interno di quella che gli studiosi chiamano una cultura mediterranea dell'evasione, che ahimè ci accomuna ad altri paesi a noi vicini che, come sappiamo, stanno avendo problemi anche più grossi dei nostri come Grecia e Spagna. Allora, la potenzialità dell'evasione è perché noi viviamo in un clima che favorisce potenzialmente l'evasione e non incoraggia l'adempimento spontaneo. Un esempio per tutti, il fisco, perché il fisco deve essere complicato? Cioè, se il fisco è semplice e abbondano gli esempi a livello internazionale, basta guardare a quello che avviene in Francia, in Germania, Se l'adempimento fiscale è una corsa a ostacoli, io stesso cittadino onesto mi sento in qualche modo, tra virgolette, legittimato a cercare delle scappatoie, e la scappatoia è naturalmente quella di non pagare le tasse o pagarle solo in parte. In più, c'è da aggiungere questo abnorme livello della tassazione che pesa in modo determinante su chi le tasse le paga per intero. E perché pesa in questo modo? Perché noi dobbiamo, ognuno di noi deve far fronte per la sua parte a questa quota di base imponibile che viene sottratta a tassazione, che dunque impone al governo di mantenere una pressione fiscale francamente eccessiva. Ma non è eccessiva in assoluto, perché se noi guardiamo le statistiche vediamo che ad esempio anche la Francia ha una tassazione elevatissima, ma vogliamo mettere l'efficienza dello Stato francese rispetto a quello italiano? Vengono in mente anche tanti esempi di sostegno, per esempio alla famiglia quando viene a mancare un reddito per un'improvvisa perdita di un posto di lavoro, tutto il reticolo di interventi che si fanno nel sociale, che evidentemente responsabilizzano molto il contribuente anche a fare la propria parte nei confronti del fisco e quindi del sistema pubblico. Prima di proseguire la nostra chiacchierata con Dino Pesole, vi faccio ascoltare questo secondo brano che abbiamo tratto appunto dal suo libro, e lo intitoliamo così: Con o senza ricevuta? Con o senza? Domanda ricorrente e imbarazzante. Quante volte ci è stata rivolta dall'idraulico, l'avvocato, il dentista, l'impresario edile? Spesso non ce n'è nemmeno bisogno, perché si fa tutto in nero. Con o senza, sottinteso ricevuta o fattura, fa una certa differenza, a volte di alcune centinaia di euro. La risposta in moltissimi casi è scontata: senza. Preferiamo prendere parte, sia pure in qualità di soggetti cui viene imposto un out-out, alle mille piccole grandi evasioni e delusioni fiscali di cui è costellata la nostra vita di tutti i giorni, e ottenere così un momentaneo, ancorché illusorio, beneficio, piuttosto che esigere quel che sarebbe dovuto. Senza fattura, meglio pagare di meno subito, poi si vedrà. È il trionfo dell'interesse particolare e marginale. Da un lato il professionista o l'esercente, che aggira l'obbligo all'emissione di un formale attestato da cui emerga la prestazione svolta e il compenso ricevuto. Dall'altro il cittadino contribuente, che a fronte della mancata indicazione dell'IVA dovuta porta a casa una sorta di sconto indiretto. Nel caso degli scontrini e delle ricevute, spesso avvertiamo un'indistinta sensazione di disagio. Ci sentiamo addirittura in colpa quando ci avviciniamo alla cassa del bar o del ristorante con questa elementare, sintetica richiesta: e lo scontrino? Mi rilascerebbe la ricevuta? Domanda che suscita sorpresa, a volte sconcerto. Risulta, nel migliore dei casi, inopportuna. Ma come? Chiede la ricevuta fiscale proprio a me, con tutte le tasse che pago? Che fare? Certo, c'è l'obbligo di rilasciare la ricevuta e lo scontrino, ma siamo in Italia. Dovrebbe esserci un finanziere ovunque. E poi, e qui la responsabilità è di tutti noi, è talmente radicata l'attitudine media a dare per scontato che la ricevuta o lo scontrino non vengano rilasciati, che spesso dimentichiamo del tutto di richiederli. Dovrebbe esserci un finanziere ovunque, dici tu, Dino, nel tuo libro. In realtà esiste un numero della Guardia di Finanza al quale rivolgersi, il 117, se non mi ricordo male, che ha avuto di recente proprio un boom di segnalazioni. Però noi preferiamo chiamare la Guardia di Finanza al telefono, fare una segnalazione anonima, piuttosto che chiedere al bar, al ristoratore, al negoziante, ad un altro professionista di rilasciarci un documento che avrebbe l'obbligo di rilasciarci. Perché? Sì, qui il fatto è profondamente radicato, quindi bisogna andare alle radici di questo paese ed è difficilissimo da scardinare le abitudini. In altri paesi, senza guardare per carità gli Stati Uniti, che proprio dal punto di vista fiscale sono un altro mondo, un altro pianeta a questo punto, da noi non c'è l'abitudine, perché in qualche modo il rapporto stesso che i cittadini hanno nei confronti dei pubblici uffici in generale, non solo, ma anche degli esercizi commerciali, un rapporto, come dire, anche in qualche modo di sudditanza e di anche in qualche modo non ci si fida. Poiché l'attitudine media è quella a cercare dei varchi, dei compromessi, magari la volta successiva si otterrà uno sconto, magari si paga un caffè in meno, oppure si salta un taglio dei capelli. E così funziona questo paese, cioè sullo scambio che avviene anche e molto spesso al di là della normale legalità. È un fatto culturale, molto difficile sradicarlo, ma secondo me si dovrebbe cominciare. Qualcosa sta cambiando. Che cosa? Questo... Intanto bisogna dire che a fronte della crisi e a fronte del fatto che ormai il problema dell'evasione fiscale è percepito, sta crescendo, quantomeno crescendo, la consapevolezza da parte dei cittadini onesti del fatto che l'evasione arreca un danno a tutti. Questo è un principio che non è facilissimo da affermare nel nostro paese. Noi storicamente non ci sentiamo una comunità. E dunque questo principio, che altrove è scontato, fa parte del DNA dell'essere di un paese, da noi invece va costruito. In qualche modo, se vogliamo, anche i blitz che sono stati portati a compimento in località simboliche lo scorso inverno, Cortina, la Milano da bere e ecco, tutto altro, hanno in qualche modo contribuito in ogni caso a elevare la percezione comune sul fatto che c'è molta gente che continua a farla franca. Uh-huh. E poiché c'è la crisi e la crisi morde, a questo punto cresce l'insofferenza. Ora, che dall'insofferenza poi nasca, come si può dire, un movimento di opinione tale da trasferire alla classe politica un'istanza forte, perché non basta, è del tutto evidente che non basta perseguire gli evasori con strumenti che pure sono fondamentali di deterrenza. Qui ci vuole un salto fondamentale, cioè l'amministrazione deve completamente cambiare passo. Oltre a cambiare passo, cioè lo deve fare attraverso naturalmente delle azioni concrete, e infatti Dino Pesole nel suo libro propone le 5 mosse per cambiare il fisco. Una l'abbiamo già indicata in precedenza, Dino, ed era quella della semplicità, rendere la nostra legislazione di più facile interpretazione con degli adempimenti più semplici per non ostacolare quella che tu definisci appunto la fedeltà fiscale. Siccome l'abbiamo già detta la prima mossa, passo subito alla seconda, la proponiamo nella nostra pillola, ed è quella della correttezza. Seconda mossa, correttezza. L'amministrazione dovrebbe essere vigile, presente e vicina a quanti devono presentare la dichiarazione, in modo decisamente più massiccio di quanto non avvenga ora. Si tratta di un passaggio molto delicato che condiziona in modo significativo il livello di adesione spontanea. Sostenere il contribuente nella fase di compilazione della propria dichiarazione è un servizio che richiede all'amministrazione impegno e risorse qualificate. La sinergia con quanti operano all'interno dell'intermediazione professionale deve essere piena e totale. Questa mossa sulla correttezza, Dino, inevitabilmente mi porta al tema del costante, continuo contenzioso fra fisco e italiani, sempre elevatissimo. Lo Stato d'altronde è inflessibile quando deve ricevere, del tutto assente fino ad essere irresponsabile quando deve restituire. È questo il punto, cioè non si può essere rigidi fino al punto di perseguire contribuenti per semplici errori formali e quindi poi arrivare a delle assurdità, per cui abbiamo assistito a un campionario fiscale del tutto inadeguato a un paese che ha d'altro canto questi livelli di inciviltà fiscale, le ganasce fiscali e quant'altro. Allora, se da un lato il fisco mostra la faccia feroce, ed è forse anche giusto farlo fino a un certo punto rispetto a chi non paga le tasse, d'altro canto occorre lavorare su quella enorme zona grigia che riguarda tutti noi, lo ribadisco, che alimenta le piccole evasioni ed elusioni quotidiane. E come lo si fa? In un modo molto semplice, non ci inventiamo niente, basta guardare quello che fanno gli altri paesi vicini a noi, la Francia e la Germania, che hanno da anni, se non da decenni, investito risorse e uomini sulla fase che precede la dichiarazione. Molto semplice. Io, sulla base dei dati che ho, io amministrazione, che ho dall'incrocio delle banche dati, e l'amministrazione finanziaria italiana lo può fare anche domani mattina, sono in grado di sapere quanto quell'X contribuente, quel signore, dovrebbe dichiarare sulla base di alcuni parametri, e sono il reddito, e sono il patrimonio, e sono i consumi. Ci sono tutti questi dati. Allora, se io lo chiamo prima e dico: caro signore, io mi aspetto che lei dichiari 50.000, lei quanto intende dichiarare? Allora, se in questa fase si instaura un dialogo, non è impossibile, ed è documentato statisticamente dagli altri paesi, si accresce il livello di quella che i tecnici chiamano tax compliance, che noi in italiano traduciamo l'adesione spontanea al pagamento delle imposte. In questa fase di dialogo tra l'amministrazione e il contribuente nasce una diversa civiltà fiscale che nel tempo determina un incremento delle entrate. Questo è il punto che si deve affermare. E infatti, Dino, abbiamo 30 secondi di tempo prima della seconda pausa, perché non riusciamo ad arrivare a raggiungere questo obiettivo nel nostro paese per ragioni di consenso politico? Anche perché il nostro sistema fiscale è frutto di una serie di decisioni storiche che sono state prese nel nostro paese fin dal 73 in poi, e per motivi anche di divisione politiche dello scenario di riferimento dell'elettorato non è stato possibile avviare un sistema di tassazione più equo, ma adesso siamo in un'altra stagione e quindi questo si può fare. Tra l'altro, Dino, non mi sono ricordata di dire da chi è edito questo libro: Castelvecchi Editore, giusto? Sì, giusto, con la prefazione di Carlo Azeglio Ciampi, che mi onora moltissimo. Certo, e un'introduzione molto, come sempre, brillante anche di Sergio Rizzo, che ovviamente si tuffa in questi argomenti sempre con grande piacere, con aneddoti sempre ricchi di spunti di conversazione con considerazioni. Allora, stavamo con Dino Pesoli appunto affrontando la parte centrale di questo libro, cioè le 5 mosse per cambiare il fisco. Abbiamo parlato del tema della semplicità della legislazione, che aiuta naturalmente il contribuente virtuoso, la correttezza da parte della pubblica amministrazione, sempre in un'ottica di aiutare l'adesione spontanea al pagamento delle tasse. Andrei adesso al terzo punto, alla terza mossa, che è quella della trasparenza. Terza mossa, trasparenza. Entrano in gioco gli strumenti che consentono all'amministrazione finanziaria di valutare quanto il contribuente dovrebbe dichiarare. Rilevante è il ruolo del sostituto di imposta, ma anche altri elementi, quali l'elenco clienti e fornitori IVA, in base al quale si può ricostruire il volume d'affari di un soggetto attraverso gli acquisti e le vendite effettuati con altri soggetti. Si può fare affidamento anche sul conto corrente dedicato all'esercizio di un'attività economica, accessibile nelle movimentazioni principali all'amministrazione finanziaria, e sulla tracciabilità dei pagamenti. Dino, da qualche tempo nel nostro paese abbiamo preso confidenza con strumenti come lo spesometro, il redditometro, a cui però i contribuenti italiani guardano come se fossero degli incubi. Certo, perché il problema è, come dicevamo poc'anzi, cioè se non si comincia a instaurare un diverso rapporto più civile, ed è possibile, di confronto preventivo tra amministrazione e contribuenti, non si riuscirà a evitare anche quella sorta di timor panico che ognuno di noi ha quando riceve una semplice segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, che alle volte è semplicemente l'annuncio: caro contribuente, abbiamo analizzato la sua dichiarazione dei redditi e lei è perfettamente in regola. Anche questo semplice annuncio ci crea disagio, ci crea una qualche paura, perché tutti abbiamo una fortissima insofferenza rispetto al sistema fiscale, in genere rispetto a uno Stato che non funziona. Allora, da questo punto di vista se ne può uscire, secondo me, se l'amministrazione finanziaria fa la prima mossa, cioè viene incontro attraverso uno scatto di efficienza, e questo è possibile, alle istanze dei contribuenti. Trasparenza vuol dire anche essere trasparenti al proprio interno, cioè l'amministrazione finanziaria, così come ogni amministrazione dello Stato, deve essere assolutamente cristallina. E dunque a questo punto essere anche di esempio, ed è tutt'uno con l'altro, poi criterio, se vuoi, ne parliamo, che è quello della tempestività. Parliamone subito, perché non riesco a mandare in onda il contributo, quindi ce lo devi sintetizzare tu, il tema della tempestività dell'azione della pubblica amministrazione quando fa il suo monitoraggio fiscale. Beh, certo, perché essere tempestivi vuol dire comunicare per tempo agli intermediari le novità che sono intervenute nell'ordinamento per effetto anche di decisioni che vengono prese a livello quasi di un'alluvione normativa che si è abbattuta su tutti noi negli ultimi decenni, e al tempo stesso garantire con la medesima tempestività che se c'è da fare, ad esempio, mettere in atto un rimborso fiscale, questo rimborso venga restituito in tempi certi e magari anche con un assegno così anche simbolico che potrebbe anche far piacere, no? Ricevere un assegno dal fisco in cui si dica: caro contribuente, a fronte di una cifra che noi le dobbiamo, le comunichiamo che questo è il suo assegno. Beh, insomma, sarebbe un bel segnale, ma certo. è così arduo ipotizzare una cosa del genere? Non ci sembra, vediamo se chi ha la facoltà di farlo, appunto, coglierà i tuoi spunti. Dino, tra l'altro, la quinta mossa, su questa ci siamo soffermati a lungo nella prima parte di Salva Danaio, si lega anche appunto alla considerazione che facevi adesso, il tema della premialità, l'introduzione di un incentivo per i contribuenti che aderiscono spontaneamente all'obbligo fiscale, al pagamento delle tasse. Abbiamo pochissimi istanti prima di salutarci, però mi voglio togliere una curiosità con te prima di chiudere la nostra trasmissione. Io mi ricordo che un anno fa Monti, in una delle sue prime conferenze stampa, uno dei momenti più duri della sua vita, immagino, con il suo nuovo ruolo appunto da capo dell'esecutivo italiano, aveva detto che avrebbe costituito un gruppo di lavoro o comunque accolto i suggerimenti dei giornalisti più preparati sulla materia fiscale di bilancio pubblico. Non so se tu sia stato mai convocato dal Premier o comunque se hai avuto modo di fornire i tuoi pareri. Se non hai potuto farlo a voce, immagino che adesso che hai messo nero su bianco le tue idee potrai recapitare al Presidente del Consiglio questo libro. Quale vorresti che fosse il primo suggerimento che accogliesse? Beh, certamente, a parte che lo scriviamo quasi tutti i giorni sui giornali, quindi anche il Presidente Monti forse ha avuto modo di verificarlo, apprezzarlo, spero, quello che... Il suggerimento che io mi sentirei di lanciare al Presidente Monti è proprio questo, cioè: se il fisco, e l'abbiamo detto finora, è la chiave di volta di questo Paese da ora ai prossimi anni, allora certamente occorre fare tutti gli sforzi per cercare di diminuire sul serio le tasse. Non so quanto potrà farlo lui, ma certamente nella prossima legislatura questo è il punto. Ma la questione fondamentale è la semplificazione degli adempimenti. Io sono convintissimo che se gli adempimenti fiscali sono, come avviene in altri paesi, sostanzialmente ridotti a un click, cioè ci si mette al computer, si dichiara e si spinge il famoso bottoncino, l'adempimento fiscale diventa meno oneroso. Allora, al Presidente Monti mi sentirei di chiederlo di spendere tutte le energie, a costo zero questo, non ci sono costi per le finanze pubbliche, sia quello di semplificare il più possibile il nostro sistema fiscale. È il primo passo per una diversa civiltà fiscale. Signori, vi abbiamo presentato Il Salasso, il libro del collega del Sole 24 Ore, Dino Pesole, Come non finire dissanguati dalle tasse, 5 mosse per cambiare il fisco. In libreria lo trovate facilmente perché ha una copertina rosso vivo, edito da Castelvecchi Editore. Dino, grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie molte, grazie a Marco Lombardo per l'assistenza in redazione, Filippo Aureggi in assistenza tecnica. A tutti, buon fine settimana.